deserto di Stanford senza sole. Ragazzi benestanti cercavano un ruolo. C'erano guardie, c'erano prigionieri, c'erano sogni di scienza e potere. Un esperimento, un gioco crudele, dove il confine si fa sottile tra chi comanda e chi obbedisce, tra chi soffre e chi punisce. E l'effetto Lucifero scende giù nelle stanze buie della. Dietro il perché. Non serviva addestrare la crudeltà, venne da sola come verità. Un gioco di ruoli, una finta prigione, divenne inferno e tentazione. Un detenuto spezzato nel pianto, la scienza che perde il suo incanto. L'amore lo ferma, una donna lo guarda, gli dice basta. E il diavolo tarda. E l'effetto Lucifero cresce in te quando il potere ti chiama a sé. Quando l'ambiente ti vuole carnefice, la coscienza diventa complice. Chi sei tu se nessuno ti vede? Chi sei tu quando il buio ti crede? Ma resta lì nel doppio ruolo che l'ha tradito così. Sperimentatore o carceriere, chi studia il male o chi ne è prigioniero. E noi che guardiamo da dietro lo schermo, saremo migliori o solo più fermi? L'ambiente ci cambia, ma dentro di noi c'è sempre un angelo che cade e poi si rialza. Eroe o carnefice, dipende da dove voi. Brave persone, ambienti sbagliati, nessuno è puro, nessuno è dannato. E se il gatto non c'è, i topi ballano, le coscienze dormono, i sogni parlano. Ma chi resta umano in un mondo di vetro è l'unico vero esperimento segreto. Oh!